metallici che sembrano quasi inseguirsi dentro spazi sempre più grandi, forse anche in un certo qual modo partendo da anfratti sonori, da oscurità, e poi va a espandersi e diventa quasi un pezzo mentale, in questo senso la trance music di Dobson, ma anche quella ascoltata prima di Man Bene, Points of Friction, diventa un grande viaggio dentro delle trance music quasi impossibili, perché provengono da uno dei periodi forse meno psichedelici, come quello del post-punk, anzi legato a un suono che quando non voleva essere diretto wave, addirittura pop in molti casi, diventava dark o industrial, quindi con una certa rottura, ma difficilmente insomma psichedelico. Appunto, forse ho citato il gruppo che compì una grande operazione, forse anche quasi impossibile, quella di unire il suono psichedelico, quasi una sorta di Jimi Hendrix dentro una macchina infernale, quella dei Chrome, e forse pensando anche a questi insomma si sono ispirati i tre progetti, tutto il giro appunto tra Los Angeles e Hollywood. E tra l'altro abbiamo anche ascoltato prima, tra insomma i vari gruppi che avrei detto insomma che avremmo ascoltato insomma, e non ho citato Repetition, che è una formazione con pochissimo materiale, ma che vede una collaborazione assolutamente importante, perché dentro Repetition, che era progetto di Steven Catton, che insomma per certi versi troverà soddisfazioni commerciali con Tori Amos, insomma abbandonando quindi gli esperimenti più arditi per andare su un pop per quanto autoriale, insomma, però molto distante dai Repetition. E Ruben Garcia invece, che è più o meno ancora attivo insomma fino agli anni 10, si è fatto fino al 2010 si è fatto sentire, e soprattutto un terzo membro aggiunto a questo progetto, ovvero il grande Errol Budd, che nelle ultime trasmissioni stiamo citando per vari motivi, anche qua una sorta di ubiquità che ha Errol Budd, persone ambientali, però come avete sentito anche nel trattamento del pezzo di Repetition, sì, etereo, però con un certo anche suono brumoso, con una sporcizia insomma anche piuttosto sentita e come dire trasmessa attraverso appunto l'elaborazione sonora del pezzo che abbiamo ascoltato, ma dell'intero progetto Repetition. Se vogliamo insomma trattare la trance music, la scorsa trasmissione abbiamo dedicato una buona parte insomma a Savage Republic, abbiamo accennato e anche ascoltato il lavoro di Produce con la sua prima formazione After Image, pezzo decisamente post-punk. Andiamo a trovarlo proprio come Produce, sia dentro le Los Angeles Mantra accurate direttamente da lui, progetto assolutamente geniale, per genia veramente nel vero senso della parola, di tante attitudini dentro la trance, forse le attitudini globali che voleva appunto produrre. Barry Gregg, conosciuto appunto con questo nome, purtroppo scomparso 3 anni fa nel 2011, ma con tanti lavori alle spalle, sia come appunto organizzatore della scena trans music, ricordiamo la sua splendida Transport, etichetta eccezionale nel trasportare appunto, scusate il gioco di parole, o portare la trans anche livelli piuttosto sperimentali e improprio come Produce, tra l'altro con un progetto anche in mezzo tra After Image e Produce in the Distance, anche questo molto interessante che trovate tra dentro le varie Los Angeles mantra. E nell'88 arriva il primo disco vero e proprio di Produce con suoni assolutamente eccezionali per musicalità, anzi forse più che suoni, visto che stiamo trattando un suono ambientale, sì, per certi versi anche vicino a un certo massimalismo di Errol Budd, post-iniano, ecco, post-ambient, Plateau o Mirror, disco appunto fatto con Brian Eno di Errol Budd, e Produce e va su quella musicalità e quella cantabilità anche quasi dell'ambient, non abbandonando mai quella trance brumosa anche con questo rumore che comunque è di base. Ci andiamo a prendere appunto dell'88 questo bel The Clearing, ascoltandoci due pezzi appunto da parte di Barry Gray con il suo progetto più famoso con Produce, e quindi con un po' il momento fondamentale insieme a Savage Republic di tutta la trance music appunto di Los Angeles. e potremmo continuare così per un'altra oretta con questo splendido lavoro di Sam Rosenthal, The Passage, che veramente è un passaggio. E se Produce insieme a Bruce Licker di Savage Republic, magari più con i progetti fuori Savage Republic, più diciamo legati a alla trance, così nel senso anche più conosciuto del termine, del concetto, ci viene in mente sicuramente tante filiazioni. Una di queste è sicuramente quella di Sam Rosenthal, che si è mosso insomma forse più che su Bruce Licker e su Barry Gregg, appunto, di A-Produce, che insieme a Bruce Licker insomma ha fondato questa idea, questo suono, questa scena legata alla trance Los Angelina, figlio neanche tanto illegittimo Produce, visto che per tanti versi, anche per geografie musicali, Sam Rosenthal viene da questo proseguire il discorso della trance music di Los Angeles, proprio in solo nei pochi dischi fatti dall'85 fino ai nostri giorni. Sam Rosenthal ha portato avanti questa idea di musica infinita, di questa ipnosi che si nutre di questo immaginario appunto indeterminato, sempre alla ricerca di un'immagine altra, e così all'infinito. In questo senso è un suono circolare, ipnotico, che vive della sua stessa forza organica, quasi appunto nello svilupparsi da se stesso, ecco, da un suono minimo che poi diventa sempre più forte, più massimale, no? In questo senso Produce, la figura anche prima evocata di Errol Budd, ma anche ascoltata come trattamento dentro Repetition. Tra l'altro Sam Rosenthal, forse più famoso con Black Tape for Blue Girl, formazione che è anch'essa mossa dalle forme più eteree della trance music, però con quella dark wave più marcata, se vogliamo, sia come immagini, anche di fatto, de facto, insomma, sugli album, sui video, questa goticità, insomma, sviluppata però non in maniera così banale come tante formazioni poi nella seconda metà degli anni 80 fecero, ma Black Tape for Every Girl ebbero sempre quel pizzico di sperimentazione e quel suono insomma californiano che le attraversava, quelle della trance music, ma soprattutto con progetti solisti. Sam Rosenthal porta insomma questo verbo, diciamo così, creato da Barry Gregg e da Bruce Licker, anche una nuova esplorazione, se pensiamo ad esempio anche a Sam Rosenthal come curatore di Project, bella etichetta sonora che tratta anche suoni post-industriali, quei suoni post-industriali che uniscono tanto attrition, quelli di The House, quanto certo certo suono californiano che abbiamo trattato anche dentro gli Astral Traveler, quelli più vicini insomma a Steve Roach. Lo stesso Steve Roach stamperà per Project e avrà anche collaborazioni con Sam Rosenthal, quindi quasi a colmare un momento musicale tra post-industrialità e ambient, quelle ambient che avevano anche un'idea ritualistica, se vogliamo, del suono, della circolarità di questo suono. Da Sam Rosenthal andiamo a trovare un altro sperimentatore, lui sì, più dentro effettivamente anche la trance music, come anche progetto allargato, lo troviamo dentro le Los Angeles Mantra, dentro progetti vari portati avanti anche con collaborazioni con lo stesso Produs, dentro poi tra l'altro l'etichetta proprio creata dai Produce, quindi da Barry Craig Transport, e andiamo a trovare dal primo disco tra l'altro di Chas Smith questa splendida pedal steel guitar che viene portata a livelli decisamente onirici, trans, in questo Nakadai, un disco influenzato da una certa cultura zen, da un certo ricercare un suono quasi neutrale, un ambient che si va a mischiare con tutto ma non perde mai quel senso ipnotico molto molto voluto nelle musiche di Chas Smith fino ai nostri giorni. Ma torniamo appunto al primo disco del 1987, Nakadai. veramente interessante l'utilizzo della chitarra da parte di Chas Smith, portare il suono della chitarra e questi livelli di astrazione è piuttosto notevole nel corso di buona parte della carriera di Chas Smith, che poi approderà al cinema, da non confondere con Chas Smith, che invece è faccenda più legata al jazz. Chas Smith and Hercis, uno dei dischi tra l'altro importanti dell'anno scorso per quanto riguarda il jazz, o quello che insomma potrebbe essere considerato post jazz, ma con Chas Smith appunto si va su quel mondo pararock, diciamo, c'è cioè l'utilizzo della chitarra però fuori assolutamente dal canone rock, e per raggiungere veramente risultati anche filmici di fatto. Non è un caso che Chas Smith arriverà appunto a sonorizzare molte pellicole, proprio per questo suo essere sempre decisamente visivo dentro le sue composizioni, dentro le sue sonorità così oniriche, ma decisamente anche ipnotiche e in alcuni momenti anche allucinatorie. Abbiamo sentito anche come certe frequenze alte andassero a colpire, insomma, quasi in maniera insomma, non prettamente insomma rilassata, il nostro ascolto. E se arrivati insomma alla fine di Viva Los Angeles, parte 2, dobbiamo insomma compiere così un ciclo e quindi come dire fare quadrare il cerchio. Beh, forse è la migliore maniera, visto che poi sia Bruce Licker che Barry Gregg, che sono un po' i primi attori, coloro che i Deus Ex Machina hanno mosso insomma a tutta la trance music los angelina, probabilmente una delle figure più belle, più importanti della scena è quella di Carl Stone, quindi forse era la maniera migliore tra virgolette di chiudere questo omaggio insomma alla trans music los angelina, questo suono incredibile lancinante del post punk californiano. Con la figura di Carl Stone si coglie un po' tutto il portato, anche l'importanza appunto di questo percorso legato alla trans music los angelina, ovvero tanto suono e tante attitudini legate all'avanguardia. Ricordiamo che Carl Stone esce fuori come allievo dalle composizioni dei corsi di composizione di Morton Subotnick, di James Tenney, e poi è approdato come membro al Dipartimento di Informazione e Media addirittura di Chukyo University in Giappone, quindi si è spostato decisamente, ma le sue musiche poi di fatto si spostano, sono spostate anche loro stesse dentro territori decisamente sperimentali, e appunto con Castone si coglie sia quel disegno delle avanguardie anche e delle nuove avanguardie storiche, e anche quel disegno così decisamente post-punk e anche se vogliamo ribelle rispetto ai codici, ai canoni. Abbiamo ascoltato nella prima parte di Los Angeles, di Viva Los Angeles, con un pezzo di cut-up situazionista, una sorta di Dada Industrial, Dada Wave, che potete appunto ascoltare sul blog di 451, che a questo punto ricordo 451frammentisonori.noblogs.org. E invece in questo caso andiamo a trovare proprio una Carl Stone del primissimo periodo, 1983, proprio il periodo in cui stampava legato a Barry Gregg e a Bruce Licker per Los Angeles Mantra, ma anche appunto per Viva Los Angeles, quindi dentro un po' tutte le situazioni, anche come collaborazioni e come atteggiamento decisamente aperto. L'andiamo a prendere però appunto in un lavoro staccato e momentaneamente dal giro della trance music, perlomeno è come rapporto immediato di filiazione, visto che è stampato per la Visa Record, legata a personaggi come John La Barbara, quindi appunto torniamo all'avanguardia, se vogliamo quella colta, e che comunque è, come dire, come figlio ribelle, Carl Stone ci sta tutto, sia della wave trattata, del post-punk, della trance music, sia appunto della neoavanguardia storica. E chiudiamo appunto, cerchiamo di fare quadrare questo benedetto o maledetto, visto che insomma tante oscurità hanno anche toccato questi autori e questo progetto globale, questa scena della trance music. Chiudiamo appunto con Carl Stone. Io vi rimando a mercoledì prossimo, sempre con un'altra California Uberalles, probabilmente sulla Subterranean, quindi si va anche qua in campi piuttosto minati e piuttosto bombaroli in termini di linguaggio sonoro e di sperimentazione. Carl Stone dal suo Lae Oak, disco del 1983. Vi saluta Max Macchi e vi rimanda appunto alla prossima di 451 Frammenti Sonori. Ciao.